piccolo programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Io vi avviso dall'inizio, non dite poi che non ve l'avevo detto, eh? Io vi avviso dall'inizio, allacciate le cinture per questa puntata, perché potrebbero sentirsi delle belle. Prendo la responsabilità, poi nel caso io non fossi qui sabato, insomma, capirete perché. Questo lo sto dicendo per l'ospite che presenterò tra un pochino, dopo le mie disquisizioni, i miei vaneggiamenti. Quindi, insomma, cerchiamo di... se ci sono deboli di cuore, suscettibili, forse è meglio non ascoltare questa puntata, e naturalmente tappate anche le orecchie ai minori. Però intanto vi ricordo, come sempre, sarà pleonastico, ma tanti magari sentono per la prima volta, non ci sono più le mezze stagioni, vi ricordo, provate a pensare qual è la notizia che vi ha colpito di più questa settimana e chiamate il numero verde 800 24 00 24 per le vostre libere opinioni, un modo per ritornare insieme, fare un bilancio così chiacchierato sui fatti della settimana, ritornare a fare delle riflessioni, ascoltare gli altri, avere degli spunti propri, eccetera eccetera. Ma anche non posso mai sottrarmi al rito con voi di dirci che cos'è che ogni volta ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni, cos'è che questa settimana lo conferma. Poi lo chiederò magari anche all'opinionista estemporaneo di oggi. Ecco, voi sapete, no, gli italiani, l'Italia, diciamo, ha il primato nella qualità del gelato nel mondo, perché lo fa in modo tradizionale. Poi ci sono quelli che usano le polverine, ci sono quelli che usano le sostanze, però per lo più, diciamo, siamo conosciuti per il gelato, oltre che per altre cose. In questo momento, non le elenchiamo tutte, e diciamo che, insomma, il latte, quando proprio un latte diverso, originale, il latte di capra può essere, no? Latte d'asina qualcuno anche usa, però il latte di mucca in genere, se non si usa le polverine, è quello classico. Ebbene, un gelataio piuttosto creativo, diciamo così, a Londra, Covent Garden, ha aperto ieri una gelateria, e qual è il suo gelato, proprio quello che ha lanciato come, diciamo, il prototipo di trasgressione, di novità mondiale del gelato. Ebbene, questo nuovo fior di latte si chiama Baby Gaga ed è... questa è la bellezza di 23 sterline a porzione. Voi vi chiederete che c'ha il platino dentro? No, non ha il platino. Che cos'ha questo fior di latte così particolare? Il latte materno. Fatti mandare dalla mamma. Ebbene, lui ha chiesto a 15 donne di provare, insomma, a tirarsi questo latte così, e una di loro ha detto: ma perché, che vergogna c'è, effettivamente cosa potrebbe esserci di più biologico di questo latte? Il Baby Gaga mescola, tra l'altro, dovrete sapere la ricetta intera, latte materno con vaniglia del Madagascar, scorzetta di limone, eccetera. Uno si può, possiamo dire, ecco, un po' come un ritorno al naturale potrebbe essere, oppure potrebbe anche essere vista come una stranezza, come una perversione, come, non so, come volete voi. Questo, insomma, ci conferma, non ci sono più le stagioni, neanche il gelato è più quello di una volta. E poi, a proposito di notizie della settimana, ne ho una pronta che vedo qua su Repubblica.it tra pochissimo, ma vado anche a dare così una svista molto veloce su Facebook. Sapete che c'è la pagina dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Su Facebook ci sono varie battute che si scambiano gli internauti su Berlusconi, su Unità d'Italia, eccetera eccetera, spiritose, ma se volete andarle a vedere, andate a vederle di vostra personale iniziativa. E poi c'è un'ascoltatrice che invece parla dei massacri in Libia e l'emergenza umanitaria e dice: orrore in Libia, stiamo assistendo a un genocidio storico e noi ci preoccupiamo della possibile ondata migratoria, non siamo un tantino inadeguati? Anche quello è un problema molto grosso, l'Europa forse... insomma, nicchia un po' su questa questione, potrebbe essere veramente una cosa da gestire a livello internazionale, anche questo, ci si può abbandonare a noi stessi. Però certo non è l'unico problema, lì si sta compiendo un genocidio. Poi invece, su, per esempio, sulla svolta di Obama sui matrimoni gay, che ha detto questa settimana basta, il Dipartimento di Giustizia della Casa Bianca non andrà più a difendere da nessuna parte il Marriage Act, cioè quella legge che stabilisce che solo tra uomini e donne ci si può sposare, perché, dice Obama, è incostituzionale, quindi aperto sui possibili matrimoni gay, che tra l'altro si celebrano già in 6 stati degli Stati Uniti. E vediamo un po', c'è Adriano che dice: sono completamente in disaccordo, sono contro natura e mi appello al darwinismo, non c'è futuro con coppie omosessuali, non esiste proprio. Un'ascoltatrice invece dice: viva Obama, Adriano sei proprio un cavernicolo. Vabbè, insomma, poi discutiscono tra di loro. E un'altra ascoltatrice dice: le coppie omosessuali costituiscono una variante presente in natura e per tale motivo non possono essere contro, inoltre non sono frutto di una scelta ma risultato di ciò che si è e si sente, eccetera eccetera eccetera. Bene, ma direi adesso bando alle ciance, non prendiamo altro tempo, lasciatevi, vi dicevo, le cinture, perché, signore e signori, oggi ho Vauro. Salve, ma mi sono spaventato molto di questa presentazione. Ah, pensavo del latte materno e il gelato. No, io il latte materno ormai non mi ricordo neanche più che sapore ha e preferisco la vodka. Puoi andare a Covent Garden, una volta che sei sobrio, vai lì e assaggi questo. È aperto ieri. Il problema non è arrivare a Covent Garden, il problema è la volta che sono sobrio. Ah, ecco. Spero però, insomma, oggi sei che hai bevuto una camomilla, un tè, un succo di mirtillo? Allora io dico subito che per chi non sapesse, diciamo per una casualità accidentale, per un disguido non dovesse sapere chi è Vauro, lo dico subito, da questo momento Vauro è un farabutto. Sì. È vero Vauro, lo confessi? Sei pentito tra l'altro, confesso, però farabutto pentito. Ed è un titolo onorifico che mi è stato addirittura dato dalla presidenza del Consiglio e quindi ci tengo molto. Ma hai una coccarda per questo, una medaglia, un contrassegno da qualche parte? Ma mi hanno detto che basta la faccia. Effettivamente la tua basta. E insomma, il farabutto è anche il titolo, giustamente, non solo il titolo onorifico di Vauro, ma anche del suo ultimo libro, Farabutto, sottotitolo Dichiarazioni d'amore molesto, prefazione di Michele Santoro. Infatti, vado brevemente, Vauro, se mi permetti, a cercare la prefazione di Santoro, almeno all'inizio. A parte c'è questa epigrafe che tu dedichi, che anzi è una frase di Umberto Bossi direttamente, che dice: chi dice che siamo razzisti e xenofobi, chi ci accosta a Le Pen, che è appunto l'estremista di destra francese, è un farabutto, quindi tu ti senti hai accusato. No, il titolo onorifico poi appunto, come vedi, è stato dato a più mandate, l'ho preso anche da Bossi, perché io penso che la Lega sia un partito razzista. Poi sentiremo se gli ascoltatori vogliono intervenire anche su questo, ma leggo brevemente un po' il ritratto che almeno nelle prime righe fa Santoro di Vauro. Vauro è un contenitore di personaggi diversi e contrastanti, l'anarchico corrosivo e sradicante che rifiuta qualsiasi regola, il comunista nostalgico impegnato nell'impossibile missione di recuperare dalle pietre della storia l'idea della rivoluzione, il collezionista maniacale di vecchie divise militari sovietiche, questo non sapevo, indossate da giganteschi inquietanti manichini, c'è spazio in casa, il cacciatore accanito di polipi. No, i polipi no, poverini. Sì, devo confessare questa mia debolezza che farà arrabbiare gli animalisti. Sai, una volta uno mi si è avvolto in Grecia intorno al piede, così lo guardavo con una certa tenerezza. Io vado a cacciarli in Grecia. Appunto. Poi li mangio, Poi li mangio. Poi li mangio anch'io, in realtà, non quelli che pesco, vabbè, quindi ipocrisia questa. Il cacciatore accanito, abbiamo detto, polipi armato di primordiale furgone, il moralista sgomento delle brutture del mondo, la guerra prima di tutto, quindi immagino anche questa della Libia, questa rivoluzione, questa guerra civile. Vauro, che pensi? Che pensi? Io quello che penso è che, vedi, il tuo programma si chiama Ci sono più le mezze stagioni, no? Bene, una delle mezze stagioni che è durata troppi anni è l'appoggio che le potenze occidentali, direttamente o indirettamente, per perseguire i loro interessi sulle fonti energetiche, eccetera, lo sappiamo tutti, specialmente sul petrolio, hanno dato ai dittatori dell'area africana e dell'area medio orientale. Bene, quella lunga mezza stagione è finita, sta finendo. La rivolta del popolo libico ne è un tragico ma splendido esempio. Diciamo che sì, adesso vedremo un po' cosa succede, perché queste transizioni sono sempre un po' a rischio, se vanno verso la democrazia, si trasformano i sudditi in cittadini, sono una cosa, si spera che il rischio non sia fondato quello di una deriva di islamica integralista, no? Questo io hanno un po' credo paura. Che siamo gli ultimi a poter dare lezioni di democrazia in Europa in generale, in Occidente in generale, in Italia proprio in particolare, noi siamo la democrazia del bunga bunga, quindi non, per favore, insomma. A questo proposito mi fa venire in mente una cosa, perdonami Vauro. Intanto vi ricordo Vauro, cioè disegnatore, autore satirico, giornalista, scrittore, collabora stabilmente, lo sapete, con Anno Zero, aveva creato Il Male nel 1977, un giornale culto di satira italiana, ha lasciato il segno in molte testate, da satirico con Smemoranda, Manifesto, Corriere della Sera, eccetera. Mi fa venire in mente questa cosa, vedo Repubblica.it, primo titolo, c'è la foto di Berlusconi, sorridente, ridanciano, la scuola pubblica non educa sì alla famiglia, no ai matrimoni gay. Allora mi viene in mente, a proposito della svolta dell'altro ieri, mi pare, di Obama sui matrimoni gay, che tutto sommato uno può essere pro o contro Berlusconi, perché si sa che l'Italia è schierata calcisticamente nei suoi confronti, si possono anche apprezzare delle cose, disprezzare delle altre, si possono avere idee diverse, diciamo, su Berlusconi. Ma se posso dare proprio un modestissimo consiglio, io personalmente, il mio piccolissimo, forse sulla questione di cosa devono fare gli altri rispetto all'amore, forse è la persona meno adatta, possiamo dire che questo argomento forse può sorvolare o no? Che dici, Mauro? Ma direi, anche perché lui, nonostante abbia fondato un partito che si chiama Partito dell'Amore, addirittura l'amore non sa neanche dove sta di casa, tant'è che il sottotitolo del libro Il Farabutto è Cronache di un amore molesto, perché l'amore è dinamico, l'amore è gioia ma è anche sofferenza, è interessarsi dell'altro o degli altri, è un movimento continuo. Berlusconi è mummificato da un'infinità di tempo, si muove anche lui in vari ambiti. Comunque volevo dirti un'altra cosa, Mauro. Io adesso non voglio entrare nella tua vita privata, Prego. Non voglio, per carità, però, c'è problema. Però mi sono un po' preoccupata, perché leggevo ieri o l'altro ieri, mi sembra, di questa ricerca della Società Italiana di Andrologia Medica e Medicina della Sessualità, che gli uomini stanno arrivando presto a una specie di anoressia sessuale. Guardano talmente tanto i siti pornografici, e iniziano anche ai 14 anni, c'è una stragrande maggioranza degli uomini in questa grande percentuale che guarda siti hard, il 73,4%, e pare che soprattutto se il primo sguardo proibito su questi siti sulla rete si getta già a 14 anni, le conseguenze sono molto serie. C'è un grosso campanello d'allarme, perché si manifesta questa anoressia sessuale, cioè la mancanza di desiderio e la difficoltà anche di erezione, già intorno ai 20-25 anni, con appunto perdita di desiderio e di funzionalità. Diciamo, adesso io non so, tu non hai iniziato a 14 anni perché manco c'erano i siti, però... Sei fuori pericolo. Però io devo dire che non credo che sia una questione solo riguardante i siti pornografici. Io penso che purtroppo anche qui da molti anni noi stiamo vivendo in un gigantesco sito pornografico. La pornografia della subcultura, la pornografia della stragrande maggioranza dei programmi televisivi che mostrino o non mostrino meteorine, sederi, tette o altro, la pornografia dell'egoismo, la pornografia dell'idea che si possa, che ne so, diventare milionari aprendo una busta. Non sto parlando delle buste che il Presidente del Consiglio consegna alle signorine, no? Sto parlando dei giochi televisivi, la pornografia della chiusura ermetica al sentimento. Io credo che tutto questo sia pornografia, e certamente prima parlavamo d'amore. Io non sono un moralista, ci mancherebbe altro, ma se non c'è l'impulso dell'amore, diciamo, quella erezione di cui prima parlavi. Elezione o erezione, dicevi? Erezione, l'hai detto tu, eh? Sì. No, perché qualcuno ha parlato anche di erezioni anticipate, cose così, insomma, adesso facciamo questi giochi di parole. Comunque, ma quelle credo che, insomma, divengano più difficoltose o più autistiche, appunto. Anche piuttosto autistiche. Allora, Mauro, cominciamo a sentire le opinioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori al numero verde 800 24 0024. Angelo, da Venezia. Ciao Roberta, ciao, buongiorno. Buongiorno a te, Angelo. E a Mauro pure, che mi è simpatico anche se io non ho televisione e non lo vedo. Ecco, però so del suo libro e mi sorpresero le similianze delle dichiarazioni del nostro premier con quelle di Battisti. Ecco. In che senso? Fatelo dire da Mauro, dai, non è questo il tema. Ah, va bene, poi magari se c'è tempo ce lo dirà Mauro. Sì, te lo dirà senz'altro. Le similianze delle dichiarazioni fatte da Battisti. L'ex terrorista, non il cantante. Sì, no, il cantatore. Sì, rispetto alla giustizia, eccetera, eccetera. Vabbè. Ascolta Roberto, sì. Se tu mi chiarisci una cosa, oppure se anche Mauro, insomma, è una domanda che... Sì, non vuole essere necessariamente maliziosa. Non difficile, Angelo. Fa il circa... No, però sì. Fammela dire, perché prego. Ci vuole concentrazione. Ascolta. Sì, concentra. Noi abbiamo un premier che, diciamo, ha permeato di sé, forse sì, all'incirca gli ultimi 17 anni della nostra vita politica. Ed è una persona, io ho letto tra i vari libri, ho letto il venditore che, come dire, cioè alla fine del libro io dicevo ma quanto è bravo quest'uomo, veramente, quando è stato anche nelle situazioni più difficili se ne è saputo tirar fuori, quando era quasi con le spalle per terra è riuscito a tirarsi su. E l'araba fenice Berlusconi? Sì, ma sicuramente è una persona molto, che ha molta stima di sé, sicuramente molto tenace, ha molto coraggio, no? Sa, per carità, ma poi non allarghiamoci troppo, sa oleare i meccanismi giusti, no? Adesso ognuno fa una libera interpretazione dell'olio che usa, no? Dico, una persona di così, basta che non sia quello deodorato, perché la Coldiretti denunciava in questi giorni che l'Unione Europea ha fatto passare l'olio deodorato, che non sarebbe commestibile, ma con alcune manipolazioni poi diventa... Ascolta, ti faccio la domanda e finisco. Sì. Ma ho le cuffie. Una persona di così tanta bravura, diciamo, così, in senso generale, di coraggio, no? Dico, ma avrai coraggio oppure, visto che adesso insomma ci sono varie udienze di processi suoi, no? Dico, ma cosa ci mette a presentarsi e lasciare l'azione di governo, non so, a un suo vice? Lui un vice ce l'ha, non so se è Gianni Letta, se qualcuno, saranno anche ben pagati, tutte le cariche hanno un vice, no? Certo. Ma perché davvero una persona di così tanto coraggio non va ai suoi processi e si difende, dici, davanti ai magistrati? Angelo, i vice continuino la meritoria azione di questo governo del fare, no? Ecco, solo questo. Tu mi chiedi, lo chiedi perché a me, è una domanda da un milione di dollari questa, Angelo, però chiariscimi tu piuttosto una cosa. Tu sei quindi un grande ammiratore di Silvio Berlusconi, e però nello stesso tempo dici, perché, visto che è così bravo, coraggioso e tenace, non va a difendersi direttamente? Questo stai dicendo tu, Angelo? La seconda parte della tua domanda è giusta. Sulla prima parte ti faccio io una domanda. Ancora, sì. Sei sicura che io sia un grande ammiratore di quest'uomo? E dipende se il tono tuo era ironico o intendevi veramente che è capace, che è bravo, che insomma ha saputo fare le premesso, cose. Ti ho pure premesso che la mia domanda non voleva essere troppo maliziosa, appunto, ma un pochino forse lo era. Va bene, Angelo, malizia a parte, sentiamo se Vauro, smaliziato con me, sa darti una risposta soddisfacente. Grazie. Guarda, grazie. Ci si può riagganciare al discorso di prima dei siti porno. Berlusconi è un pornocrate, e non tanto per i suoi festini, bunga bunga eccetera, ma proprio per i disvalori che ha comunicato in tutti i modi, sia attraverso i media, sia tramite, la metto fra virgolette perché non si capisce quale sia, la sua immagine politica. La pornografia di cui Berlusconi ha reso dipendente buona parte di questo paese consiste nel valorizzare il peggio che questo paese ha prodotto, produce o pensa. Il peggio è quello che ti dicevo prima, il peggio è la furberia portata a valore, è l'impunità portata come un valore, è l'egoismo economico e morale, anche quello portato come un valore, ha valorizzato i disvalori. Vauro, e questa è pornografia. Poi chiediamo, tra l'altro, anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori se sono d'accordo, per esempio, con questa tua analisi e questa risposta ad Angelo. Tra poco c'è Gina dalla provincia di Imperia, ricordo il numero se volete esprimere le vostre opinioni sulle notizie della settimana, 800 24 00 24, e direi a questo punto, proprio perché bisogna sempre dare insomma almeno questa aura di democrazia anche al mio programma, colleghiamoci anche con un altro pianeta. Via. Riflessioni da Marte. Sarà che quassù, su Marte, certe cose arrivano un po' indifferita, no? Un po' nebulose da un pianeta all'altro. Insomma. Ma mentre anche questa settimana osservavo il globo terracqueo dal pianeta rosso per la sua particolare colorazione, mi è parso di percepire che certe cose sulla Terra funzionano a volte un po' all'incontrario. Per esempio, ho saputo che molte abitazioni che fanno parte di un patrimonio pubblico vengono date di preferenza a prezzi stracciati a ricchi e potenti anziché ai tanti bisognosi. Sarà forse che i primi, cioè i potenti, si presentano decisamente meglio quando vanno a chiedere le case? Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Oppure ancora c'è un prefetto, il prefetto Lombardi, del capoluogo lombardo, che prende una multa per sosta vietata e fa ricorso a se stesso. Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Del resto non si dice forse che chi fa per sé fa per tre. E poi c'è un dittatore con la messa in piega al catrame che mentre sta facendo marmellata del suo popolo chiama al telefono il presidente del Consiglio italiano e gli dice non ti preoccupare, qui va tutto bene. Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Ma forse si possono comprendere le idee sottosopra, diciamo così, del sultano beduino se ci si affida a quanto detto subito, sin dalle prime ore, da alcuni commentatori americani che l'hanno definito un uomo deranged. Deranged significa, scusate che ho qui l'Oxford Dictionary, allora deranged, ecco, significa demente, quindi si può comprendere il perché, diciamo, di tante cose. Ma a proposito di dare un significato ribaltato alle cose, oppure di capire fischi per fiaschi, devono aver avuto un sobbalzo diversi parlamentari italiani quando in questi giorni si è parlato di un vaccino per la superimmunità creato per ora come prototipo da ricercatori americani capaci di indurre immunità a lungo termine. Devono aver pensato vai è fatta, ma pare che fosse invece solo l'immunità contro virus e batteri. E sempre seguendo il filo dell'illogicità almeno apparente, diciamo, per carità, dopo molte tormentose discussioni, dopo estenuanti tira e molla, il governo è addivenuto alla conclusione che non bastava festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia portandosi una bottiglia di spumante Brut sul luogo di lavoro e ha quindi deciso solennemente il prossimo 17 marzo è festa nazionale, quindi tutti a casa. Ma gli assessori della Lega Nord, che fanno parte della giunta lombarda, devono averla capita al contrario. Annunciano: noi il 17 marzo andiamo a lavorare a Laura, forse a Laura si direbbe. Qualcuno sospetta che l'indicazione a lavorare nei confronti di questi assessori provenga, e con una certa pressione psicologica, tra l'altro in tempi di bunga bunga, dalle mura domestiche. Sentite. Chi non lavora non farà. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. E ritorniamo subito con i piedi per terra e sentiamo Gina dalla provincia di Imperia. Pronto? Oh Gina, buongiorno. Buongiorno signora Roberta, signora. Sono un po' emozionata, sì. Non so se riesco a esprimere bene. Riuscirai che... Gina, ma non mi chiamare signora che mi emoziona, che mi fa meglio orticare quel signore. Sì. Grazie. Dunque, io non voglio fare un discorso politico perché ne avrei troppe da dire, confermo, cioè condivido tutto quello che ha detto il signor Vauro proprio l'ultimo tempo del programma. Però io ho un'angoscia, ho 70 anni, ho lavorato una vita, fatto tanti sacrifici per far studiare le mie figlie, darle certi valori, tutte e due hanno raggiunto perlomeno il posto di lavoro che oggi è così precario, e quindi però sempre con quei sani principi. Io stessa ho lavorato in un ente pubblico, ho sempre cercato quello che mi ha insegnato mio padre, di essere, di non avere mai compromessi. E quello che succede nel mondo mi tengo aggiornata, cerco perlomeno di capire, e vedere un presidente del Consiglio ridanciano che tira in ballo la sinistra, vorrebbe il bunga bunga, come se lo invidiassero. Cioè, ma come si può essere così ed essere a capo di un paese, di una nazione? Ecco, tutti i principi che mi hanno insegnato i miei genitori, quelli che ho insegnato alle mie figlie, mi sembrano andati, cioè, qui capisco Rosi Bindi quando ha detto in un programma che ha detto che il sindaco di Firenze è frutto di berlusconismo. Io penso veramente che queste ultime generazioni hanno imparato da queste cose, perché non si sente della gente che lo giustifica. Sai che stavo pensando, Gina, che proprio non più tardi di ieri, adesso lo vado a cercare, me l'ero appuntato da qualche parte, D'Alema, Massimo D'Alema aveva fatto, ed è una cosa, intanto ti ringrazio Gina del tuo intervento, è una cosa che D'Alema ha detto a proposito della presentazione del libro di Renzi, dice: ci andrò senz'altro perché è un ragazzo brillante. Secondo te Massimo D'Alema fa lo strategico, fa il furbetto, lo dice così pubblicamente ma poi pensa diversamente? Ovviamente Vauro cosa penserà del sindaco Renzi che vuole rottamare, no? Sai, il rottamatore per antonomasia, lui. Guarda, di rottamatori nella sinistra ce ne sono stati anche troppi, tant'è che la sinistra è praticamente rottamata da tempo, per cui Renzi sta arrivando anche in ritardo. Invece è arrivato puntualissimo alla Villa di Arcore a visitare il Presidente del Consiglio. Non credo che fosse. Lui dice non c'è niente di male, il mio Presidente del Consiglio, e quindi vado a consigliarmi. Se lo tenga, è il suo Presidente del Consiglio. Senti, invece di D'Alema cosa pensi? Perché in questi giorni, no, si è molto criticato la posizione e i rapporti di Berlusconi con Gheddafi. Sicuramente lui è quello che l'ha portato più all'enfasi teatrale, diciamo, questo rapporto. Però in realtà anche Pierluigi Battista ricordava sul Corriere in questi giorni che c'è stato un tentativo di sbiacchettamento ipocrita da parte un po' di tutta la comunità internazionale nei confronti di Gheddafi, perché tutti hanno stretto relazioni commerciali, di interesse, no, compreso D'Alema. Non sono fra i difensori di D'Alema, ci mancherebbe altro, l'ho sempre bastonato anche con le mie vignette. Detto questo, ma non c'è confronto, ora che un paese, un governo debba avere in qualche modo relazioni diplomatiche con altri governi o altri paesi, anche quando questi governi sono sgraditi, mi sembra ovvio. Da lì a baciare le mani a un dittatore, come ha fatto il Presidente del Consiglio, a mandargli 500 ragazze nella villa dove risiedeva quando era in visita a Roma, e tutto quello che Berlusconi ha fatto di apologetico nei confronti di Gheddafi, persona che peraltro gli somiglia molto. Tu prima citavi lì da Marte la testa catramata. Beh, la testa catramata ce l'ha pure il Presidente del Consiglio. E riguardo all'opinione degli americani su Gheddafi, coincide esattamente a quella che hanno rivelata da WikiLeaks sul nostro Presidente del Consiglio, cioè i famosi cablogrammi. Ma dimmi una cosa, Vauro, prima di sentire tra poco Stefano e anche di farci questa piccola pausa, è possibile secondo te che alla fine Gheddafi, per esempio, avesse questa passione per la tenda che ha piazzato anche a Roma, magari perché ha un passato da boy scout? Io ho fatto brevemente, no, ovunque si fosse, qui il picchetti, il martellino, metti sulla tenda, qualsiasi fazzoletto. È possibile che lui abbia avuto questo retaggio? Che dici? Da boy scout? Oddio mio, sarà anche possibile, ma forse non ha preso la specialità. Tra l'altro, volevo chiedere a Vauro, anzi, dirti questa cosa. Io penso che nei momenti peggiori della storia microscopica oppure nazionale o internazionale, insomma, nei momenti di difficoltà ci sono le persone che, insomma, alcune fanno emergere il meglio di sé, diciamo, almeno questa sorta di empatia, di disponibilità nei confronti dell'altro. Allora ti racconto questa notizia che è di ieri. Ebbene, il sindaco Giuseppe Calabrese, lista civica di ispirazione centrodestra, non è PDL, insomma, comunque una lista civica, Giuseppe Calabrese è sindaco delle isole Tremiti, isole bellissime al largo della Puglia, dove anche Lucio Dalla da anni passa le sue vacanze, eccetera eccetera. Ebbene, vedendo Gheddafi in difficoltà, ha rilasciato un'intervista con dichiarazioni pro Gheddafi, dicendo: lo invito a raggiungere la località italiana, le isole Tremiti, per il suo esilio. Quindi, diciamo, ha mostrato grande disponibilità in un momento di difficoltà di Gheddafi. Pensa che 7 consiglieri dell'amministrazione comunale di questo sindaco, che sono 4 in quota alla maggioranza, quindi di centrodestra, e 3 dell'opposizione, si sono dimessi. Veramente un gesto straordinario, no, di questi consiglieri, che potevano pure rimanere lì a fare il loro mestiere di politici, eccetera. Di fronte a questa cosa si sono dimessi. Che pensi, Vauro? Tanto che è incredibile, è fantastico che ci siano dei politici che si dimettano in Italia, dovrebbe essere una notizia da prima pagina di tutti i giornali, perché mi sembra che non accada spesso, anzi che non accada mai. Però il sindaco, diciamo, è stato caritatevole. Via, il sindaco è stato caritatevole. Forse il ministro Maroni dovrebbe prendere esempio da questo sindaco e invece di continuare a fare allarmismo sui milioni di profughi che dovrebbero arrivare, cercare di approntare un sistema di accoglienza. Questo sì, però il rischio c'è, Vauro. Il rischio c'è, meglio non sottovalutare, insomma, ma sia per noi che per loro stessi. Non se siano gli strumenti, rischio, ma sono semplicemente, no? Ci sono tantissimi, collassano anche le infrastrutture, anche non è proprio una questione di paese che ospita meno immigrati in Europa. Sì, da questo punto di vista è vero, è anche piccoletta, quindi, l'Italia. Voglio dire, questa enfasi sul rischio immigrazione non l'ho mai capita, anche perché momento... si vanno a vedere i dati economici e anche quelli anagrafici, si vede che è l'immigrazione che mantiene giovane questo paese. Sì, però tu immagina questi paesi, Vauro, al collasso in questo momento: Libia, Tunisia, Egitto, tra poco anche lo Yemen, chissà se si sveglia di più l'Algeria. Tu immagina tutta questo esodo, immagino, cioè possiamo accoglierlo tutto in un momento. Prendo le cifre del Ministero degli Interni, aspettano 5.000 persone, se Vasco Rossi fa un concerto in uno stadio ci vanno 5.000 persone, tutti parlerebbero di flop. Sì, ma quelle persone hanno una casa, hanno una vita, sono regolari. Comunque, ho capito. Parlando delle persone che hanno casa in Italia, sono quelle del più albergo Trivulzio. Non solo quelle, quelli sono quelli privilegiati. Ma per quelle è molto più facile. Allora, se è così facile trovare case a prezzi stracciati per i signori della politica e dell'economia, credo che sia altrettanto facile trovarla per persone che fuggono da crisi umanitarie, da guerre. Diciamo che questo sarebbe l'obiettivo dal punto di vista etico, però poi bisogna anche fare i conti un po' con l'oggettività, con la concretezza. Comunque, Mauro, credo che sia l'obiettivo, perché un governo che fa una legge che equipara a un reato, cioè a un crimine, la condizione umana del migrante, la legge che dice che la clandestinità è reato in sé, a prescindere da cosa compia il cosiddetto clandestino. Beh, non mi sembra che si ponga questo obiettivo. No, quella si può modificare. Ma continuiamo a sentire Stefano da Roma. Perdonaci, Stefano, che stavamo un po' divagando appunto sulla questione Libia e il rischio di emergenza umanitaria. Stefano, scusa, allora stavi dicendo ci si concentra troppo sulla figura di Berlusconi, questo mi pare? Sì, ci si concentra moltissimo, troppo, secondo me. La notizia della settimana per me è vero. Lui ha detto questa frase terribile e probabilmente specchio della sua personalità. Quale? Cioè quale? Quella quando ha detto che probabilmente la sinistra invidia il suo bunga bunga. Ah. Ecco, questa frase è forse lo specchio della sua narcisistica arroganza, che arriva ad essere pericolosa, secondo me, perché non rendersi conto di quello che ha sollevato queste sue azioni discutibili, peraltro è grave, ecco, indubbiamente è grave e dovrebbe almeno porsi di fronte all'opinione pubblica con un pochino di modestia, invece continua ad essere arrogante. Però il pericolo, secondo me, oggi come oggi, di concentrarsi su questa figura di una persona sola che sembra incarnare una quantità enorme di difetti e di disqualità, rischia però di distrarci dal fatto che la società è cambiata. Come mai gli italiani ridono di questo invece che indignarsi? Non è solo Berlusconi, non ci dobbiamo illudere che sia non so, caduto un giorno o quando Berlusconi andrà in pensione la moralità di questo paese ritornerà in voga. Ritornerà. No, evidentemente c'è qualche cosa di più strutturale, c'è qualche cosa anche di più grave, perché io seguo molto l'opinione pubblica, la vostra stessa emittente, la Zanzara, tutto quanto, anche le disqualità dei politici, viene preso a ridere. Allora evidentemente Berlusconi è specchio molto più fedele oggi di quello che è un consentire piuttosto che l'eccezione che ho capito, in qualche maniera Stefano, è arrivata al potere. Ti ringrazio, anche se ero un po' disturbato, ma si è capito chiaramente quello che volevi dire, quasi un cambiamento antropologico di cui dici non può essere responsabile solo Berlusconi, forse ne è lo specchio. Adesso vi do però un flash di agenzia interessante, perché evidentemente Fabrizio Corona non è mai pago, diciamo, di guai, di bravate, di far parlare di sé, eccetera. Sapete, no, il famoso agente di questa agenzia fotografica di scandali, eccetera, Vallettopoli, eccetera, eccetera, si è introdotto Fabrizio Corona da una finestra in casa di Concetta Scazzi, no, il delitto di Avetrana, Sara Scazzi, eccetera, ad Avetrana, spaventando la mamma della quindicenne, che forse non ne aveva bisogno di essere spaventata ulteriormente, della quindicenne poverina uccisa il 26 agosto scorso. È accaduto poco fa. Lo riferiscono i legali della famiglia Scazzi, Walter Biscotti e Nicodemo Gentile, specificando che l'uomo, una volta scoperto dalla mamma di Sara, si è allontanato dall'abitazione. A casa degli Scazzi si trovano ora i carabinieri, allertati dai legali, giustamente, al fine di far sporgere denuncia per violazione di domicilio. Insomma, non so, ti dessi una calmata forse. Francesco da Pesaro. Sì, buongiorno. Buongiorno Francesco. No, io volevo intervenire a proposito del discorso, diciamo, politico. Io volevo dire questo, cioè secondo me si parla troppo poco del vuoto assoluto che c'è, diciamo, attorno a questa dicotomia Berlusconi o contro Berlusconi. Io in passato ho votato anche, diciamo, centrosinistra, la prima volta votai Prodi. Negli ultimi anni, devo dire la verità, tra l'astensione e il centrodestra, ho sempre votato il centrodestra. Però quello che volevo dirvi è che manca troppo, allora, da un punto di vista della sinistra c'è proprio veramente il nulla, e secondo me un pregio che ha avuto Berlusconi è quello veramente di far emergere questo nulla, dove alla fine la sinistra, al di là del contro Berlusconi, non è stata capace di produrre niente. Anche io mi ricordo per quel breve periodo che è stato al governo, non ha proposto dei progetti alternativi. Io, andando sugli argomenti molto pratici che hanno toccato la vita dei cittadini, io mi ricordo che nei confronti, per esempio, della speculazione immobiliare, non è che abbiano proposto una tassa nei confronti dei troppi passaggi annuali di transazioni immobiliari, eccetera, pur sapendo che lì si è concentrata gran parte dell'evasione fiscale. E io, quindi, da un lato, cioè, mi metto nei panni. Io in questi ultimi anni sono stato un elettore di centrodestra, però la cosa che più mi sconvolge è il fatto che proprio non c'è una discussione seria che vada oltre questa dicotomia Berlusconi contro Berlusconi. Io, per esempio, nel centrodestra ci sono, secondo me, due ministeri che hanno fatto un pessimo lavoro, che sono quello del nucleare e quello della scuola. E mi rendo conto che anche lì c'è troppo poco senso critico nei confronti dell'elettorato di centrodestra nel criticare poi i punti salienti di queste strategie economiche. Francesco, però sei stato chiarissimo, quindi hai detto sei voti a centrodestra perché dici c'è il vuoto dall'altra parte, nel momento in cui hanno potuto governare non hanno proposto dei veri programmi alternativi, e però dici sei anche obiettivamente critico almeno verso due ministeri dal tuo punto di vista dell'attuale governo. Ma adesso galoppando andiamo verso la satira politica col nostro Stefano Andreoli di Spinoza.it, che è anche un libro, è un sito, è un blog satirico straordinario. Stefano, un flash dunque di questa settimana, caro Stefano. Buongiorno. Mi costringe a rivedere i miei piani con questa ultima ora clamorosa. Corona si introduce in casa Scazzi attraverso una finestra. Vedi, a non mettere le zanzariere, questo può succedere. In ogni modo sono un po' dispiaciuto. Moschicida, ovviamente. Sono un po' dispiaciuto che Misseri non fosse a casa, perché poteva essere un bel incontro. Un saluto a Vauro, che ha detto che al latte materno preferisce la vodka. Sono d'accordo, ma la confezione non è paragonabile, me lo ammetterà. Scusate, ma mi voglio allineare una puntata pruriginosa. Tu guardi troppi siti porno e io so che cosa ti può accadere. Ma che comunque, cosa stai dicendo? Una puntata pruriginosa, io mi adatto a te che parli di anoressia sessuale, mi hai fatto il gioco di parole sulle erezioni anticipate, Roberta. Per cortesia, meglio parlare d'altro, lascio la parola a te. Parliamo di Libia, i ribelli libici dichiarano il regime è sostenuto dall'Italia, ma Gheddafi dichiara l'Italia arma i ribelli. Questo è un bel metro per capire il prestigio internazionale dell'Italia, cioè le fazioni che si insultano a vicenda dicendosi di essere nostri amici, cioè si accusano, e quindi questo è molto bello. Frattini riferisce in Parlamento sulla Libia, per ora ha saputo che confina con l'Egitto, e poi arriveranno altre informazioni. Beh, qualcosa di più ha detto, sì. Dal bunker Gheddafi accusa Bin Laden, lascia sempre i cappellini nella doccia. Quindi questo è un problemino, noi siamo molto diversi dalla Libia. Tasa, poi, sì. Fare poi il paragone tra Italia e Libia è un po' strumentale, noi siamo molto diversi dalla Libia. Da noi nel bunker ci sta l'opposizione, quindi questo direi che è una... O nei salotti TV, dice qualcuno. Sì. Sostanziale. Veniamo ad altre notizie più leggere. Missione Discovery, dopo 30 anni lo shuttle finisce. Ultima missione, sì. nell'ultimo shuttle ci sarà un pezzo d'Italia, il clacson. Ecco, questa è una... è una scemenza notevole, questa è un'altra notizia vera. Beh, questa però dice molto dell'Italia, a me questa battuta piaceva molto. Nasce la TV che si cambia, che cambia canale con un gesto delle mani. Sarà impossibile guardare un porno, io credo. Se posso chiudere con l'ultima chiudi che è meglio, notizie avevano pubblicato sul Sun anche delle fotografie in un parco naturale sudafricano. Elefante citato fa sesso con un'automobile. Questo è vero. Era avvenente l'automobile. Su internet trovate le foto. Elefante eccitato fa sesso con un'auto. Poi pare che abbia lasciato sul cruscotto un CD di apicella. Molto ecco. Bene, grazie. Grazie Stefano Andreoli, sempre imbattibile come sempre. Chiudiamo con la mannaia della censura. E direi, prima di salutare la nostra Valeria della Valle, tra poco linguista della Sapienza di Roma, stavo guardando anche mille altre notizie, ma il tempo mi dicono che corre. 800 24 00 24. Tra poco, se ce la facciamo, Lorenzo da Trento. Valeria, allora, io ti direi che tra le notizie della settimana, la parola che molto è stata rimbalzata a destra e a sinistra con tutti questi cambiamenti, diciamo, transfughi in Parlamento, Volta Gabbana, insomma, certo, è un epiteto non lusinghiero che viene rivolto, come nei casi che ricordavi, a chi per opportunismo, per vantaggio personale cambia facilmente opinione e quindi anche partito. Da dove viene la parola? Beh, insomma, forse noi più grandicelli la capiamo, no? Perché è composta da voltare, quindi anche nel senso di cambiare, e Gabbana. Nulla a che fare con Dolce Gabbana, se è chiaro. Niente a che fare, se non l'origine proprio probabilmente del cognome, qualcosa a che fare ce l'ha. In ogni modo, che cos'è la Gabbana o il Gabbano? Ecco, anticamente era un cappotto, e quindi ecco che l'espressione voltare Gabbana corrisponde a un'altra espressione che ha lo stesso significato, cioè cambiare casacca, quindi cambiare divisa, passando a quella dell'avversario. Ma esiste anche un'altra espressione che è voltare o cambiare bandiera, e tutte queste espressioni a loro volta sono sinonimi di banderuola. Conclusione, il fatto che nella lingua italiana esistano tante parole e espressioni per indicare lo stesso concetto, che se ci pensiamo bene è quello di traditore, fa venire qualche cattivo pensiero. Naturalmente lo terrò per me e lascerò agli ascoltatori qualsiasi eventuale commento malizioso. Allora, l'ardua sentenza, grazie a Valeria della Valle. Grazie a voi. Grazie. Mentre ci rimangono pochi secondi, e quindi chiedo perdono umilmente a Lorenzo da Trento, se ci richiami Lorenzo il prossimo sabato, vi ricordo che la trasmissione può essere riascoltata poi sul sito di Radio 24 in podcast, potete andare sulla pagina Facebook, Non ci sono più le mezze stagioni. E mentre abbiamo questi 42 secondi ancora per Vauro, il suo ultimo libro, Farabutto. Vauro, allora, io ho letto in questi giorni questa notizia, no? Negli Stati Uniti a volte succedono delle cose veramente bizzarre. Un bambino di 11 anni è stato ammanettato e condotto in prigione in Colorado per aver disegnato a scuola una figura armata con una pistola e la scritta "la maestra deve morire". I genitori si sono detti un po' risentiti. Mi chiedo come mai non ti hanno ancora arrestato a te con le tue vignette, cioè, questo povero bambino di 11 anni ammanettato, interrogato, impronte digitali gli hanno preso. Forse perché non ho 11 anni. Ecco, forse per quello. E ormai è troppo tardi per rieducarmi. Caro Paolo, come altro possiamo concludere con un epigrafe, un perché non ci sono più le mezze stagioni, una tua battuta? Come vogliamo lasciarci così senza rancore? In due secondi. Perché mai ci dovrebbe essere del rancore? Già mai, si usa di dire così, salutiamoci senza rancore. Di stare con te. No, l'epigrafe non farà ridere, ma io credo che il vuoto di cui parlava l'ascoltatore prima è il vuoto della politica, ma non è il vuoto della società. Questa nostra società non è tutta anestetizzata, anzi, i sintomi del risveglio si vedono e sono evidenti. Sto pensando alla enorme manifestazione delle donne, alle manifestazioni delle donne del 13 febbraio. Guarda, Vauro, siccome sono pochi secondi, io volevo ricordare che tu sei anche in Manuale d'amore 3, ti sei prestato e prostato a una cosa che, insomma, così, dove parli d'amore, ci hai parlato anche prima d'amore. Senti, se mi mandi una vignetta personalizzata, chiede un'ascoltatrice qui per la pagina Facebook Non ci sono mai stagioni, ti sono grata. Volevo chiederti anche una vignetta radiofonica, ma credo che siamo proprio in ritardissimo. Vauro, ciao caro, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.